L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati, una nuova puntata nella quale parleremo di Vento Bici Tour, la pedalata promozionale del progetto di pista ciclabile lungo tutto il Po, da Venezia a Torino, progettata da un gruppo di lavoro del DASTU, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, gruppo guidato dal professor Paolo Pileri. Che senso ha questa pista? Beh, detto molto in breve, portare turisti amanti della natura, dell'arte, della gastronomia a pedalare lungo la Valle del Po, che è ricchissima di tutte e tre queste meraviglie, ma che non passa un periodo felicissimo da un punto di vista economico, lo sappiamo tutti. È un'economia, quella del cicloturismo, invece, che in Europa funziona benissimo, ma che da noi non è quasi per nulla sviluppata, se non in alcune precise aree, in particolare l'Alto Adige, una parte del lago di Garda, ma insomma c'è poco purtroppo nel nostro paese di cicloturismo. Tante piste ciclabili esistono già, ma vanno raccordate le une alle altre, vanno messe a sistema, quindi vanno rese sicure prima di poter invitare i turisti a pedalare a casa nostra. Io ho preso parte di persona a tre sole tappe di questo tour, che sono quelle che sono andate da Mantova a Oriolitta in provincia di Lodi, ma sono state tre giornate molto molto importanti per Vento. Al Teatro Ponchielli di Cremona, infatti, al convegno organizzato dalle fondazioni bancarie, che sono diventate grandi sostenitrici di questo progetto, il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio ha dato il suo endorsement, come si usa dire, ha espresso pubblicamente il suo interesse e anche la sua volontà di impegnarsi per la realizzazione di questa pista. È un particolarmente significativo questo sostegno, che si aggiunge a quelli già ottenuti dal MIBACT, quindi dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, e che onora anche i patrocini ricevuti da Vento dai Ministeri dell'Ambiente e dell'Agricoltura. Allora vorrei farvi sentire prima di tutto cosa ha detto Del Rio. Se non lo facciamo per le cose per cui io lo faccio oggi, cioè perché credo che questo sia il bisogno del paese, quello di avere appunto un altro approccio al suo ambiente, ai suoi territori, un altro modo di rivedersi e di ripensarsi, eccetera, eccetera, facciamolo anche solo perché ha un effetto economico straordinario. Se qualcheduno è cinicamente solo portato al tema economico, lo faccia solo per questo, perché è sicuro quello che è stato detto, cioè che l'investimento in cultura genera diverse volte il potenziale investito. Quindi oggi che il denaro non rende nulla, fa bene la Fondazione Cariplo a investire su questa cosa. No, comunque grazie davvero alla partecipazione delle fondazioni bancarie, di tutti coloro che parteciperanno, perché il progetto lo facciamo. Quindi il progetto lo facciamo, noi siamo pronti a sfruttare. Io qui devo dire grazie davvero al Politecnico di Milano, perché questo lavoro è stato un lavoro sicuramente di passione e di dedizione al proprio paese, non pagato, quindi almeno non da me, quindi è stato un progetto di dedizione davvero straordinario, ed è un patrimonio che adesso dobbiamo sviluppare. Noi siamo pronti a sviluppare la progettazione definitiva, siamo pronti a dare una mano da questo punto di vista, quindi ad assumerci l'onere come Ministero delle Infrastrutture di fare la progettazione definitiva in convenzione con voi, se troveremo gli accordi, se non costate troppo perché siamo poveri, ma no, dobbiamo subito preparare il progetto e poi il progetto si farà. Quindi io sapete che non sono abituato a fare nessun tipo di promessa a nessuno, ma sono sicuro che questo progetto si farà, e si farà presto, e noi così avremo, come dire, una generosità da parte vabbè, ma l'applauso va fatto a tutti. Esatto, l'applauso va fatto a tutti quei ragazzi che hanno fatto queste esplorazioni, e quindi io lo trasferisco direttamente a loro. Noi cercheremo di non fare i politici che promettono e non realizzano. Sapete che io di solito non ho mai promesso cose che poi non sono sicuro di realizzare, e quindi da amministratore intendo. Quindi ci tengo molto a fare questa cosa. Credo che facciamo un grande regalo al paese, credo che abbiate fatto oggi un grande regalo al paese, tutti coloro che hanno partecipato a questa impresa, tutte le università, le casse di risparmio, i sindaci, le autorità locali e soprattutto quei ragazzi appassionati che hanno fatto questo lavoro oscuro e che sono la vera infrastruttura di cui abbiamo bisogno: intelligenze, nuovi sguardi, nuove generosità, ecco. E questa invece è la soddisfazione del professor Paolo Pileri, che da 5 anni, come dicevamo, lavora con la sua equipe prima per progettare e poi per promuovere la pista ciclabile lungo il Po. Qualcosa si muove finalmente, anche più di qualcosa si muove. Credo che è un ottimo, è uno straordinario risultato quello che abbiamo raggiunto ieri al Ponchielli a Cremona, cioè ovvero il responsabile delle infrastrutture per il governo ha detto vento si farà. E ha ribadito anche che non si tratta solo di una promessa, ma si tratta di una constatazione che lui ha fatto e ha ponderato, ovvero ci sono le risorse per mettere in moto la progettazione. La cosa è fondamentale, perché occorre la progettazione per poi mandare a gara la realizzazione delle opere, quindi senza progettazione non si riesce a mandare a gara le cose, quindi anche i finanziamenti che possono arrivare dalla comunità europea per realizzare le opere non possono essere presi se non si ha il progetto, fondamentalmente. Quindi questa è un'operazione fondamentale. L'altro risultato fondamentale che ancora stiamo continuando a raccogliere è ad esempio anche il Piemonte e anche altre regioni come l'Emilia Romagna, che ha aderito proprio durante l'evento Bici Tour. Altra cosa fondamentale. Perché è fondamentale? Perché adesso tutto sarà come un effetto domino: se il governo comincia a finanziare un pezzo, le regioni finalmente scioglieranno le riserve fondamentalmente, e quindi ci auguriamo, come già succedendo per il Piemonte che sta parlando di qualche centinaio di migliaia di euro da investire lungo vento, ci sarà tutta una filiera di finanziamenti. Piemonte ed Emilia Romagna quindi hanno già aderito a Vento, mancano Lombardia e Veneto. In Veneto c'erano in ballo le elezioni, ora che la situazione è chiara politicamente si potrà, per così dire, tornare all'attacco per ottenere supporto anche del Veneto. Quanto alla Lombardia, lì qualcosa si sta muovendo, non solo perché al convegno di Cremona l'assessore al commercio, turismo e terziario della regione, che si chiama Mauro Parolini, sembrava convinto realmente delle possibilità di Vento di portare turismo e quindi lavoro e denaro in aree che stanno vivendo un brutto periodo, come dicevamo, anche se sono le aree più ricche da un punto di vista agricolo di tutto il paese. Ebbene, dicevo, non solo perché l'assessore era convinto da Vento, ma anche perché il giorno successivo al convegno di Cremona, a Oriolitta, che è in provincia di Lodi, la Fondazione Cariplo ha sottoscritto una manifestazione di interesse per la realizzazione di una passerella ciclopedonale che attraverserà il Ambro alla confluenza con il Po. È un progetto questo che serve per la realizzazione di Vento, ma che sarà utile ad esempio anche ai pellegrini che di lì passano seguendo la via Francigena. Ebbene, poco dopo la firma che è stata apposta sul documento dalle amministrazioni locali, dal Politecnico, dalla Fondazione Cariplo, è arrivato anche l'ok della Regione Lombardia. E ce lo ha letto questo ok in diretta Paolo Siccardi di Fondazione Cariplo, che come me in questi giorni ha pedalato con Vento. Questa mail dal titolo oggetto lettera assessore Sorte. Buonasera, anticipo via email la lettera dell'assessore Sorte, lettera di adesione formale alla manifestazione di interesse che abbiamo firmato giusto un'ora e mezza fa qui al comune di Oriolitta. Anche l'ultimo tassello è arrivato. Ecco, sì, manca il tassello più importante, quello appunto di aspettare il Politecnico di Milano che ci mette in mano il progetto di esecutivo con il computo metrico di quanto bisognerà investire per... Insomma, li metteremo alle strette, glielo faremo fare. Dopo questi giorni di Vento, per concludere, che idea ti sei fatto? Cioè il progetto che prima conoscevi sulla carta, ora l'hai vissuto anche di persona, te lo senti più vicino, te lo senti più realizzabile? Guarda, posso dirti che non appena avrò sistemato definitivamente la mia schiena con le mie due figlie e mio figlio, salirò in sella alla bicicletta per godere dell'infrastruttura cicloturistica che spero tra qualche anno sarà davvero usufruibile da tutti, in sicurezza. Ci fermiamo qualche secondo, ritorniamo tra poco. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini, stiamo parlando di Vento Bici Tour, questa pedalata promozionale del progetto di pista ciclabile lungo tutto il Po, da Venezia a Torino, che è stata progettata dal Politecnico di Milano, un gruppo guidato in particolare dal professor Paolo Pileri, un progetto che ha ricevuto in settimana il sostegno del Ministero delle Infrastrutture, come abbiamo detto poco fa, e un progetto che sta molto a cuore in primis alla Fondazione Cariplo, che ha mosso su questo tema l'Associazione delle Fondazioni Bancarie, che si chiama ACRI, e non solo, ha dato via a un altro progetto i cui risultati si innesteranno sulla dorsale ciclabile che attraversa appunto tutta la pianura padana, che abbiamo detto il Politecnico ha battezzato Vento, cioè Venezia-Torino. Abbiamo parlato di questi progetti di Fondazione Cariplo con Elena Iachia, direttore area ambiente della Fondazione, e in questo discorso sentiremo di nuovo Paolo Siccardi. Il nostro primo incontro col team di Paolo Pileri in realtà risale a una tematica diversa, cioè che era quella del consumo di suolo, quindi abbiamo lavorato con lui su questi aspetti legati al consumo di suolo e agli spazi aperti già ormai dal 2008, 2007-2008. Poi appunto il Politecnico ha iniziato a proporre, a studiare questo tracciato di Vento, e la Fondazione è almeno 4 anni che lo sostiene. Da prima con un supporto nella parte di studio di fattibilità che loro hanno fatto, e poi anche in particolare quest'anno con un supporto anche in questo evento Bici Tour 2015, che comunque è stato particolarmente sostenuto da parte nostra. Sostenuto significa un supporto morale, di azione, di che tipo supporto? Ecco, è un supporto, anzitutto è un contributo economico anche nella realizzazione di questo Vento Bici Tour, ma soprattutto è un supporto nella ufficializzazione e nel rapporto con le istituzioni. Quindi gli abbiamo dato la possibilità intanto di conoscere un mondo che è quello delle fondazioni di origine bancaria, li abbiamo messi in contatto anche con altre fondazioni oltre alla Fondazione Cariplo e con l'Associazione delle Fondazioni, tanto che ormai il Vento Bici Tour è già da 3 anni, e questo è il terzo anno che ha il patrocinio anche di ACRI, che è l'associazione. E poi, come dicevo, anche altre fondazioni che si collocano più o meno sul tracciato di Vento, altre fondazioni di origine bancaria, hanno deciso di sostenerlo. Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Quindi è già da qualche anno che abbiamo cominciato a sostenerli. E poi abbiamo deciso di integrare alcune delle nostre attività con un innesto su Vento, e quindi abbiamo deciso di fare a nostra volta un bando che abbiamo chiamato Brezza, proprio un po' per simboleggiare la continuità e l'incrocio tra queste due attività, queste due esperienze, e abbiamo appunto avviato questo bando. Il bando è seguito da Paolo Siccardi, che quindi magari adesso può spiegare infatti che cos'è, in che cosa consiste. Sì, allora intanto appunto l'idea è nata da Vento, nel senso che abbiamo immaginato Vento come la dorsale principale, no? la colonna portante del sistema del nord Italia, che collega Venezia con Torino, e abbiamo avuto questa idea di agganciarci a questo progetto attraverso lo sviluppo di mini dorsali cicloturistiche che sfruttano gli affluenti principali del fiume Po in Lombardia. Quindi abbiamo lanciato questo bando, che sta finanziando 9 studi di fattibilità che seguono un po' quello che è stato il percorso di Vento, quindi la realizzabilità l'analisi del territorio e la realizzabilità di future dorsali cicloturistiche che, grazie a percorsi in parte esistenti e percorsi che poi dovranno in qualche modo essere realizzati attraverso le cuciture del territorio, possano valorizzare il territorio lombardo agganciandosi appunto a Vento. Quindi da sempre, scusa, vie d'acqua? Sono percorsi che seguiranno gli argini dei fiumi, o comunque che seguiranno le piste ciclabili laddove esistono e che andranno a mettere poi delle pezze, quindi a realizzare queste congiunzioni dove c'è bisogno di intervenire. Gli studi sono partiti a gennaio di quest'anno, quindi da pochi mesi, e entro la metà del 2016 dovrebbero essere tutti completati. Dal confine con il Piemonte, grazie al torrente Agogna, per poi passare al Ticino, all'Ad e via dicendo fino al Mincio, copriamo appunto tutti gli affluenti del Po, e quindi l'intento è proprio quello di andare a, come dire, realizzare degli studi che noi chiamiamo un po' pacchetti chiavi in mano, nel senso che abbiamo lo studio e sarà possibile, trovando le risorse necessarie. Persone come quelle che ho incontrato qui oggi, che già pensano a Brezza, cioè hanno partecipato e stanno partecipando a questi studi di fattibilità, li stanno addirittura sperimentando portandoci sopra, sì, dei, esatto, turisti. È questo che sta accadendo adesso, sì, sta accadendo, quindi questo. Il GAL, insieme alla Valle Camonica, insieme al Parco della D'Amello Lombardo, hanno appunto partecipato al bando e stanno analizzando il territorio che dal Tonale arriverà fino appunto all'incrocio, dove siamo qui adesso, all'incrocio con il Po. E in particolare ci sono alcuni enti che a livello proprio territoriale sono un pochettino più avanti. Il Galen è un esempio: il primo tratto dal Tonale fino al Lago d'Iseo è quasi completato. Proprio in queste ultime settimane ho ottenuto un contributo sia da Regione che da parte di Fondazione Cariplo attraverso un bando che noi chiamiamo emblematico maggiore, per andare a realizzare concretamente il primo tratto, quindi il tratto più a nord. Lo studio continuerà poi nel percorso, andando a definire tutto quello che ci sarà da fare dal tratto del Lago d'Iseo fino all'innesto con il fiume Po, e quindi darà i risultati che consentiranno di costruire e di completare il percorso, quindi che dal Tonale con i 280 km arriva al Po. E così anche gli altri progetti, dal Ticino attraverso la provincia di Milano, la provincia di Pavia che sta lavorando sulla Gogna, quindi Lomellina e oltre Po Pavese, comune di Monza che insieme a una cordata di altri comuni e province sta lavorando sull'Ambro, che abbiamo poi la provincia di Lecco che sta lavorando insieme a una cordata di province dalla Valtellina fino all'innesto dell'Adda sul Po, e così via dicendo con tutti gli altri fiumi. Tutto questo ci hanno detto Iachia e Siccardi mentre ci trovavamo a Torre Oglio, in uno dei tanti incontri tra il gruppo di Vento e gli amministratori e le associazioni locali, e qui abbiamo incontrato Giuseppe Torchio, ex presidente della provincia di Cremona, ora sindaco di un paese di nome Bozzolo, presidente del GAL, che è il gruppo di azione locale Oglio Po. E da lui appunto vogliamo sapere che vantaggi può avere Vento, visto che lui è un amministratore locale, quindi potrebbe essere un diretto beneficiario di questa pista ciclabile. Siamo nel bel mezzo della centuriazione romana e siamo vicinissimi al terminal di Italo e di RFI a Reggio, a 20 km, dove c'è l'alta velocità e la gente può mettere giù i suoi mezzi di trasporto, scendere con la servizio bike, così come all'inizio è vicinissimo al secondo scalo della Lombardia, che è Orio al Serio, quando arriva in Valle Camonica. Siamo vicini al comprensorio Tonale ad Amello, siamo vicini alle incisioni rupestri della Valle Camonica, quindi al Lago d'Iseo che è piace tanto ai nordici per il suo clima gradevole e quindi abbiamo la necessità di credere. Qui la zona si è organizzata con un brand, Olio Po, su tutti i prodotti della filiera. Ha avuto un successo e sta avendo un successo incredibile. Si va dalla più grande DOP italiana, che è il Grana Padano, alla denominazione comunale, ma deve esserci un trade union, qualche cosa che unifica. E identificare questa nostra area terminale, sono 43 comuni rispetto al complesso, con un brand e i prodotti tipici, perché il lardo di Colonnata comunque si fa qui, il prosciutto di Parma, gli allevamenti, i macelli sono qui, la coppa piacentina pure. Forse la gente non sa che da questa parte dell'Olio, forse la gente è abituata a vedere tutto come è frazionato, cioè esatto. Siccome ci muoviamo in auto o in treno al massimo e non le facciamo a piedi queste cose, o in bici, pensiamo che siano tutti separati. Ma la stessa aria che c'è sul versante piacentino o parmense del Po è da questa parte, che è mantovana oppure cremonese, la stessa aria, la stessa nebbia. E il progetto Vento, con l'innesto di Brezza, scopre sostanzialmente una realtà che esiste, perché la gente di Fiume comunque ha una cultura, ha un modo di vivere le situazioni, di difendersi. Ecco, mentre c'è sempre stata un'enfasi padana, non c'è mai stata un'enfasi sull'olio, perché se uno parte a Edolo e arriva qui a Torre d'Olio, che cosa c'è che identifica? Mai hanno messo insieme questi territori. E allora adesso con Cariplo e Politecnico è partita ed è passato questo progetto Brezza. Ed è una grande soddisfazione, perché io allora ero presidente della provincia e anche del gruppo di azione locale, il GAL di Calvatone, che ha 43 comuni di quest'area. E ho sofferto molto, perché abbiamo lavorato come dei pazzi per preparare questa progettualità territoriale. Ci fermiamo qui per ora, ma torneremo su Vento in uno dei nostri prossimi reportage. Voglio ringraziare il gruppo di Vento che mi ha accolto per questi 3 giorni in cui siamo stati insieme, quindi Paolo Pileri, Diana Giudici, Alessandro Giacomel, Martina, Flavio e Riccardo. Buon lavoro a loro e complimenti per quello che hanno fatto fino adesso. Appuntamento a domani per tutti coloro che potranno, perché c'è il gran finale del Bike Tour Vento 2015. L'appuntamento è a Torino, ovviamente, sul palco del Bike Pride in Piazza Vittorio. Da Laura Bettini, buon proseguimento d'ascolto e appuntamento la settimana prossima.